gialla tra le foglie gialle, solitaria via, dimmelo tu, quella che cercai tra quelle, come mai non passa più, non passa più. Per la mia stessa via non passa più, perché non è più mia. Intorno ai platani si spogliano col vento tornano le nuvole nel cielo. Non passa più, povero cuore mio, non passa più, perché mi ha detto addio. Ricordi e rondini svaniscono lontano, non passa più, non passerà mai più. Stelle, ma chissà le stelle, se ricorderanno chi non c'è. Mille, ne contammo mille, e poi cadde in braccio a me. Più, povero cuore mio, non passa più, perché mi ha detto addio. Ricordi e rondini svaniscono lontano, non passa più, non passerà mai più.